28. Minestra di pane angelico. Midolla di pane fine, grammi 150. Prosciutto grasso e magro, grammi 50. Midollo di bue, grammi 40. Parmigiano, grammi 40. Farina, quanto basta. Uova numero 2, meno una chiara. Odore di noce moscata. La midolla di pane, bagnatela col brodo bollente, tanto che si inzuppi appena appena, e spremetela forte entro un canovaccio. E il prosciutto tritatelo finissimo, e il midollo di bue stiacciatelo con la lama piatta di un coltello, e con essa rimestatelo tanto da ridurlo come un unguento. Mescolate queste tre cose insieme col parmigiano ed aggiungete le uova. Distendete un velo di farina sulla spianatoia, versategli sopra il composto, copritelo con altra farina e fategliene prender tanta, qualcosa meno di 100 grammi possono bastare, per formare delle pallottole piuttosto morbide e grosse come le nocciole. Gettatele nel brodo bollente e dopo 10 minuti di cottura servitele. Questa dose potrà bastare per 10 o 12 persone.